America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Moody's this morning really kicked me off saying that there are downgrades for Portugal, Spain and Italy and of the UK. Moody's di nuovo interviene a gamba tesa dopo Standard & Poor's, dopo Fitch, fa una riduzione, una correzione del rischio Italia e una riduzione da A3 a A2 con la conferma di un outlook negativo. Non solo, ma Moody's decide anche di ridurre il voto negativo della Spagna da A3 ad A1, quindi un passaggio in più, un allarme quasi sul rischio spagnolo, e da BA3 a BA2 per il Portogallo. In questo caso il passaggio è soltanto di una unità, ma al di là dei numeri devo dire mi sorprende che queste agenzie per la valutazione del credito trovino il momento meno opportuno per intervenire con questi loro giudizi, al punto che mi viene il dubbio che forse hanno dei modelli che sono un po' sballati, e non lo dico per intimidire o per immaginare che ci siano delle congiure, no, mi viene il dubbio che ci siano davvero dei problemi di competenza, e vi dico perché insomma, avendo seguito la visita del presidente Mario Monti e il suo interagire con Wall Street, col presidente Obama, con l'Institute for International Economics a Washington, beh, ci si rende conto che ci sono delle cose che sono state fatte, delle altre che devono succedere attraverso un progetto di scadenze ben preciso. I tempi sono stretti, potevano essere dei tempi forse troppo stretti, visto che c'era una crisi greca che poteva esplodere, però ecco che ieri si è raggiunto un accordo in Grecia, il Parlamento ha passato un pacchetto di austerità, questo sblocca dei fondi importanti che consentiranno alla Grecia di andare avanti, non che la Grecia non abbia più problemi, per carità ce li ha, però abbiamo a questo punto un orizzonte un pochettino più ampio. Non solo, questo orizzonte più ampio consente la messa a punto delle cosiddette firewall, di questa parete tagliafuoco, il progetto per creare dei fondi che vadano a proteggere, a difendere dalla speculazione aggressiva e potenzialmente selvaggia paesi proprio come l'Italia, la Spagna, il Portogallo e così via. E dunque, nel momento in cui questo quadro, proprio col passaggio cruciale di questo pacchetto in Grecia, prende forma, Moody's interviene con un messaggio allarmante negativo per il mercato. È strano perché? Perché nella motivazione Moody's cita esattamente il problema di mancate riforme che devono essere ancora fatte nei paesi menzionati e il fatto che il cosiddetto fondo salva stati ancora non è pronto, non ci sono delle liquidità disponibili. Grazie tante, lo sapevamo, ma c'è stato un grosso progresso proprio in questi giorni, quindi o lo doveva fare molto prima oppure a questo punto aspettava 2-3 settimane per vedere come si mettevano le cose. Non l'ha fatto, per questo penso che ci sia forse qualche problema nel loro modello. Hanno tra l'altro confermato invece il AAA per Francia, Gran Bretagna ed Austria, introducendo semplicemente un outlook negativo. When our economy is growing and creating jobs at a faster clip, we've got to do everything in our power to keep this recovery on track. And if Congress adopts this budget, then along with the cuts that we've already made, we'll be able to reduce our deficit by $4 trillion by the year 2022. Anche Barack Obama si è occupato di questioni fiscali, ha presentato il suo bilancio, il bilancio 2013, una proposta che dovrà essere discussa in Congresso, lo ha fatto ad Annandale in Virginia, dove ha fatto una visita preelettorale. Dunque un bilancio di 3.800 miliardi di dollari che presenta un disavanzo di 1.330 miliardi di dollari, circa l'8,5% del PIL, un PIL che si aggira attorno ai 15.000 miliardi di dollari, e dunque prevede che il disavanzo continui a restare al di sopra dei 1.000 miliardi di dollari per il quarto anno consecutivo. Ma vediamo come si compone questo bilancio: investimenti 30 miliardi di dollari, un piano da 476 miliardi di dollari in 6 anni per il rinnovo di strade, autostrade, ferrovie, tagli, e 210 aree su cui la Casa Bianca vuole tagliare spese per 24 miliardi di dollari nel 2013 e 520 addirittura da qui al 2022. Di questa doppia situazione fiscale, da una parte l'America che presenta il suo bilancio, dall'altra l'Europa che nel momento in cui si trova l'accordo in Grecia si ritrova con questa gamba tesa di Moody's, parliamo con Vito Tanzi, che è stato direttore del Dipartimento Fiscale del Fondo Monetario Internazionale, uno dei più ascoltati economisti americani. Buongiorno Vito. Sì, buongiorno Mario. E dunque io chiedo al grande esperto fiscale, ma cosa gli passa per la testa a questi di Moody's? Ma la mia reazione quando ho sentito la notizia è che sono pazzi. anzi. Se avessero fatto questa decisione 2 mesi fa, forse l'avrei capita, ma in questo momento mi sembra totalmente irrazionale e incredibile. Ecco Vito, tu hai detto che sono pazzi, devo dire un po' lo condivido anch'io, ma più che pazzi mi sembrano poco attrezzati. Non ti sembra che si appoggiano troppo su lagging indicators piuttosto che su leading indicators? Mi spiego, o meglio lo spiego per i nostri ascoltatori, cioè su indicatori del passato piuttosto che su indicatori che riguardano il futuro? Sicuramente, ciò che sta succedendo adesso in Europa non giustificherebbe assolutamente questa decisione. La mia reazione come ex funzionario del fondo è stata sempre che noi al fondo avevamo molta più informazione ed eravamo molto più capaci di digerire, di analizzare l'informazione che Moody e le rating agency, perché ho visto farli di errori enormi. Quindi. Tra l'altro Standard & Poor's e Fitch l'avevano fatto in effetti qualche settimana fa, però il fatto che Monti è venuto in America, ha visto Wall Street, ci sono state delle espressioni di grande fiducia sia alla Casa Bianca che sui mercati finanziari a New York, insomma sono elementi che dovrebbero essere tenuti in considerazione. Perché secondo te non lo sono? Molte persone si sono convinti che non importa quello che fa l'Europa, il risultato è la fine dell'euro. Forse non possono rivedere questa conclusione. Ecco Vito, passiamo a un altro argomento. Il presidente Barack Obama ha presentato il suo bilancio. Per il quarto anno consecutivo $1,000 miliardi di disavanzo. Ti preoccupa questa situazione? Ma io sono preoccupato della situazione fiscale degli Stati Uniti, perché questo deficit continuerà ancora per 8-9 anni. Il debito pubblico aumenterà, i problemi aumenteranno, la spesa pubblica sta aumentando, ha raggiunto livelli europei, quindi effettivamente sono preoccupato. Un piccolo commento. Dimmi. Sulle proposte di Obama, sono d'accordo con l'aumento delle imposte ai ricchi, perché per ragioni non puramente fiscali, ma per ragioni di equità, di giustizia tributaria, ma non mi sono preoccupato di tutte queste spese che vuol fare. Le spese per esempio per le infrastrutture danno sempre molta corruzione, questa è stata l'esperienza del Giappone, di molti paesi, specialmente quando si fanno in fretta questi progetti, quindi preferirei ridurre la spesa pubblica e mantenere forse le proposte che vogliono fare dal lato delle entrate. Ecco, secondo te troveranno un accordo repubblicani e democratici dopo le elezioni? Io credo che il punto di svolta sarà le elezioni, poi ci sarà una window opportunity in dicembre, io punto su quello, come la vedi? È molto probabile, questo bilancio che è stato mandato adesso sicuramente non c'ha nessuna possibilità di essere approvato dai repubblicani. Delle decisioni molto più difficili verranno fatte dopo le elezioni, quindi non credo che succederà granché quest'anno. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, San Valentino. Nel giorno di San Valentino, dobbiamo pensare a tutti gli innamorati. Abbiamo scelto l'ultimo successo di Paul McCartney per voi. L'ex Beatle tra l'altro ha cantato il brano durante la notte dei Grammy Awards. Di Paul McCartney, My Valentine, Be My Valentine. Without a care, I know that someday soon the sun was gonna shine. And she was right, this love of mine, my Valentine. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.